Salve a tutti e benvenuti su ilpiaceredescrivere.it, con un nuovo podcast dedicato alle app gratis per scrivere su PDF. Dopo aver visto le app gratis per scrivere da smartphone iOS e Android, oggi vediamo quali sono i migliori strumenti che si possono trovare sul Play Store e su iTunes, dove possibile gratuiti, per fare delle modifiche dell'ultimo minuto a un file PDF. In molti pensano che il PDF sia un file granitico, ovvero non modificabile nella maggior parte dei casi. In realtà, ci sono moltissime app per scrivere su PDF, ma anche per fare annotazioni e commenti, oppure per dare direttamente il via alla stampa. Xodo PDF è un'app gratis per Android che si trova sul Play Store. L'app permette di leggere i PDF, di sincronizzarli con Google Drive e Dropbox, di fare delle annotazioni, di prendere degli appunti, di compilare dei moduli e di scrivere sul PDF in modalità notturna. Per chi studia, edita, scrive o semplicemente legge molti PDF, l'app è molto leggera e permette anche di firmare documenti a mano libera. Disponibile anche in lingua italiana, e da provare perché è anche in continua evoluzione, infatti. Gli sviluppatori hanno messo a disposizione sulla pagina ufficiale del Play Store un link dove provare la versione beta con tutte le nuove funzionalità. Disponibile per sistemi iOS, iPhone e iPad, l'app ha un costo di $10, ma ne vale davvero la pena. Infatti, si potrà modificare un PDF come se fosse un file di Word direttamente dal proprio dispositivo mobile, inserendo ed eliminando immagini, aggiungendo collegamenti ipertestuali, oscurando dati sensibili, con in più tutte le funzioni di evidenziazione e di commento tipici dei tool online per PDF. Questo strumento può essere molto interessante per il copywriter che viaggiano o che semplicemente vogliono avere tutto a portata di mano con la certezza che tutte le modifiche saranno poi salvate su iCloud. Torniamo a parlare degli smartphone Android con PDF Max. L'app ha una versione gratis con una pubblicità e con alcune limitazioni e una versione a pagamento. Permette di inserire del testo nel PDF, quindi di modificarlo, inserire dei timbri di protocollo o delle firme a mano libera, cancellare o aggiungere delle pagine, compilare i moduli, commentare, disegnare e archiviare tutte le modifiche in automatico su Drive. L'app per scrivere su PDF The Acrobat Reader è una garanzia sia per iPhone sia per smartphone Android. Permette di effettuare la scansione di un documento cartaceo direttamente dal telefono, di scrivere su PDF per modificarli, oppure di fare tutte quelle note, commenti, marcature disponibili nella maggior parte delle app di questo tipo. Si possono condividere i documenti con un semplice link, oppure scegliere di ingrandire il testo per leggerlo meglio. È ideale per chi lavora molto con i PDF e offre la garanzia che tutto sia in ordine al termine del lavoro. Come app gratis non c'è davvero niente da dire. Per gli amanti della lettura, PDF Reader è l'app gratis per scrivere su PDF e la migliore anche per leggere. Infatti, sembra proprio di fronte un vero e proprio scaffale di una libreria, dove i vari file sono icone di libri. Oltre alle funzioni di base, commento, annotazione, evidenziazione, eccetera, l'app permette di convertire in PDF in EPUB, TXT e DOC. Quindi, un autore che ha la sua opera in PDF e vuole fare delle correzioni, oppure a tenerne una versione EPUB può utilizzare la versione gratuita sopportando la pubblicità, oppure utilizzando la versione a pagamento. Questo era tutto per oggi. Vi ricordiamo che su YouTube, su Vimeo e sul sito ilpiaceredescrivere.it trovate tutti i link delle app. Su Facebook, Twitter e Instagram, invece, trovate una piccola anteprima. I podcast completi si trovano su Spreaker e su Internet Archive. Il sito è anche su Pinterest sempre come Il Piacere di Scrivere. Per il video di oggi, abbiamo utilizzato fromtexttospeech.com e Deadliner. Seguiteci su tutti i nostri canali e a presto!